Sempre più in crescita l'autostima di Mourinho. In vista della sfida col Barcellona, il tecnico del Real Madrid cita addirittura Einstein. Anche lui, bravo. Ma non ha mai allenato l'Inter. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno, così timido e